1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci di nuovo in diretta alle 7:20 minuti. Allora siete svegli, cari italiani. Forza, forza, che inizia la 29esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Voi state lì nel letto oppure a pigrare con le vostre colazioni infinite, abbondanti. È solo invidia la mia. Dai che inizia la 29esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Dai, dai, dai, schema Allegri. Dai, dai, forza che ce la si fa. Lo schema Allegri è, sono insomma, l'allenatore del Milan. Lo schema di Allegri. Dai, dai, dai che ce la si fa. Ecco, di più non ce la faccio. Oggi di che ci occupiamo? Alle 8:15 ci occupiamo della responsabilità civile dei magistrati. Pensate che il Partito Democratico è il partito che ha lanciato questa idea, un'idea vecchia, riproposta, quella di rinnovare, insomma rimettere mano alla legge Vassalli e considerare la responsabilità civile dei magistrati. Ne parleremo con il deputato Danilo Leva, che è responsabile di giustizia per il Partito Democratico, e con il magistrato Fabio Roia. Saranno nostri ospiti dalle 8:15, tra un'ora scarsa, e allora via con la lettura dei giornali. In questo lunedì 18 novembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore non ha una buona notizia in prima pagina. Tasse pronti a scattare, aumenti per 2 miliardi. 2 miliardi, cari italiani, di aumenti di tasse pronti a scattare. Vi spiegheremo perché. Si chiama clausola di salvaguardia. La salvaguardia loro, ovviamente, si intende. Poi tutti gli altri quotidiani più o meno aprono sul caso Cancellieri, che è riaperto ufficialmente, non si era mai chiuso in realtà. PD e giudici, Cancellieri in bilico, così titola il Corriere della Sera. Per Repubblica invece Renzi, Cancellieri si dimetta. La Stampa, PD pressing sulla Cancellieri. Il Messaggero, pressing sulla Cancellieri, lasci. Il Secolo XIX, Cancellieri appesa a un filo. L'Unità, ore contate per Cancellieri, sembra che un crescendo, no? Giornale per giornale, ognuno ha il titolo quasi imminente di dimissioni. Per il Giornale invece PD agguato a Letta il caso Cancellieri, mentre il Fatto Quotidiano, Cancellieri a fine corsa, il PD la molla. Vedete che i titoli sono tutti pessimisti sul destino politico di Anna Maria Cancellieri. Sono le famose telefonate con Antonino Ligresti, il fratello di Salvatore Ligresti. Prima però vorrei partire da una notizia che mi ha molto colpito in prima pagina di Repubblica. Mi ha molto colpito ed è questa. Federico Fubini la racconta. I bonus facili ai funzionari. 30.000 euro se usano l'email. Succede a Palazzo Chigi, la notizia è questa. Il 99% dei dirigenti di Palazzo Chigi, dunque degli uffici del governo, ha ottenuto il premio produttività di quest'anno. Una somma che in genere varia tra i 26.600 euro e i 31.600 euro. Per aver centrato gli obiettivi, il 99% dei più alti funzionari di Palazzo Chigi ha ottenuto questo bonus. E che tutti geni, tutti geni! 30.000 euro per usare l'email, questo è il titolo. Bonus facili a Palazzo Chigi, premiato il 99% dei dirigenti, e Letta corre ai ripari, ora una stretta sulle retribuzioni. E tra l'altro racconta Repubblica, se c'è una missione implicita che finora sono stati dati sulla base di criteri poco chiari, c'è da capirlo. Per l'anno 2013 i parametri per ottenere questi bonus produttività sono elencati in una direttiva generale di 102 pagine, pensate, 102 pagine, e Repubblica scorre alcuni punti. Il punto 2.1. Passi il miglioramento della qualità delle attività dell'amministrazione nel contesto internazionale, ma oppure il punto 2.3 prevede il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, riduzione dei tempi di lavorazione e diminuzione del flusso cartaceo. Cioè potevano scrivere usate meno carta. oppure il punto successivo, ampliamento dell'uso delle tecnologie della comunicazione. Insomma, scrive Repubblica, bonus ai dirigenti se usano la mail e non usano più carta. E che succede? Il 99% dei dirigenti, ebbene, ha ottenuto questo premio. Questo è il motivo, cari italiani, non molti altri, ma questo è uno dei motivi per cui la Germania ci fa un mazzo così, non altri. A proposito di costi dello Stato, il Corriere della Sera fa sapere che la spending review, cioè la revisione della spesa, pagina 11 del Corriere, spending review nel 2014, tagli previsti tra 1 e 2 miliardi. Ricordiamo sempre che la spesa pubblica è di 800 miliardi, eh? 800 miliardi, non tutti aggredibili ovviamente. Ma 800, questa è l'entità. Dalla sanità agli statali è all'esame del Comitato dei Ministri la relazione del commissario della Spending Review Carlo Cottarelli. Allora Antonella Baccaro e Stefania Tamburello raccontano a pagina 11 del Corriere appunto che cosa. Oggi pomeriggio il Comitato Interministeriale per la Revisione della Spesa Pubblica, presieduto dal Premier Letta, dovrà esaminare la relazione sui tagli possibili presentata da Carlo Cottarelli, e si parla appunto di previsti nel 2014 tagli tra 1 e 2 miliardi. Staremo a vedere cosa e come si taglierà. A proposito di previsioni, cari italiani, non c'è molto da stare allegri per la settimana che avverrà dal 9 dicembre. Il Corriere della Sera dedica una pagina intera, pagina 10, con Dario Di Vico, a quello che è il previsto blocco dell'autotrasporto in tutta Italia. I tir, la benzina più cara, e i rumeni, i camionisti, ora bloccano l'Italia. Contro le misure del governo, dal 9 dicembre è stato proclamato da tutte le sigle dell'autotrasporto un fermo di una settimana. E racconta Dario Di Vico, si stanno preparando le organizzazioni a un fermo straordinario dei mezzi che inizierà il 9 dicembre, dovrebbe durare addirittura una settimana, una di quelle prove di forza che i governi di Roma hanno dovuto affrontare in diverse occasioni. È successo anche a Mario Monti, l'ultima volta era capitato a Romano Prodi, non a Silvio Berlusconi. Ora Enrico Letta dovrà tentare di sminare questo conflitto che rischia di mettere in ginocchio il paese, replicando le scene che abbiamo visto in passato con piazzole intasate, file di tir ai valichi, impossibilità di viaggiare anche per i veicoli leggeri. In più stavolta il fermo dei padroncini ha già attirato l'attenzione di altri fronti della protesta antigovernativa. Basta vedere sulla rete e vedere il sito del Fronte di Liberazione dei Banchieri, Azione Rurale, Agricoltori e Dignità Sociale, Forza d'Urto, Non Vogliamo Più Pagare, Cobas del Latte, I Forconi Siciliani. Insomma, tutte queste sigle si sono date appuntamento per il 9 al Palazzetto dello Sport di Bovolone, in provincia di Verona, per un'assemblea che si preannuncia decisamente calda, fa sapere il Corriere. E allora incombe su questo appunto questo mega fermo degli autotrasportatori il 9 dicembre. Ci sarà per una settimana, chi lo sa. Vi voglio lasciare prima della pubblicità e per poi riprendere dal caso Cancellieri con un articolo di Repubblica. Il tema è sempre quello, ora è la regione Piemonte che è sotto la lente dell'attenzione dei procuratori per le spese pazze in regione. Spese loro, soldi nostri, cene e pranzi pagati dalla regione, i PM chiedono il processo per il governatore Cota. Pagina 18 di Repubblica, Sara Martinenghi, ed è il solito profluvio ed elenco di spese che ci fanno e ci mettono di buon umore. Le spese contestate a vari consiglieri con soldi nostri, presunti, cene, viaggi, hotel, borse griffate, lingerie, TV, taglia erba, elettrodomestici, calze, mutande, solarium, le spese per la colf, tutte inserite nelle spese della regione e sulle quali si sta cercando di fare luce. Fate luce. Pubblicità 24 mattino. Alle 7:33 minuti il caso Cancellieri è il caso che monopolizza l'attenzione. Ve l'avevo già detto la scorsa settimana che questa settimana sarebbe stato il caso politico. Perché? Perché mercoledì è in discussione la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della giustizia per le famose telefonate, per il caso Ligresti. Ora si tratta di capire, almeno da come la pongono i giornali, se Anna Maria Cancellieri arriverà, politicamente parlando, a mercoledì già dimissionaria, oppure si dimetterà prima, o se andrà, diciamo, a questa conta in Parlamento. Oggi i giornali sono molto pessimisti sul futuro politico di Anna Maria Cancellieri. Alcuni giornali, ad esempio l'Unità, si spinge oltre dicendo ore contate per Cancellieri, perché c'è stata l'accelerazione anche del Partito Democratico. Ieri sia Matteo Renzi ma anche Giuseppe Civati hanno detto si deve dimettere. Giuseppe Civati addirittura presenterà una mozione di sfiducia, quindi parte del Partito Democratico, di quel Partito Democratico che è anche al governo. E, insomma, oggi è pieno di articoli su questo. Retroscena su Repubblica, firma Liana Milella, pagina 3, il guardasigilli in bilico nel bunker, mi difenderò fino all'ultimo minuto. Questa sarebbe la linea per Repubblica di Cancellieri. Le dimissioni non sono sul tavolo di Anna Maria Cancellieri e non ci saranno, a meno che a chiederle non siano direttamente Napolitano o Letta, i due presidenti che invece ancora venerdì le ha rinnovato pieno appoggio. Renzi la vuol far fuori? Lei non lo vede in TV perché sono con le nipotine, dice, e quando glielo dicono replica: vediamo domani che succede. Insomma, si rifugia dietro ai proverbi, tipo quello siciliano: acqua davanti, vento di dietro, sapone sotto i piedi, per dire che è nella tempesta e lo sa bene. Ma sa pure, continua a dirlo, che il mio comportamento è stato corretto. Ho spiegato tutto, non ho nascosto nulla. Ho passato la domenica occupandomi della mia dieta, ormai non posso più lasciar perdere, così dice Repubblica. E ancora: non scherzi, ministro, qui la faccenda è seria e lei ogni giorno ha la sua pena. Vivo alla giornata, aspettiamo gli sviluppi. Io ero e sono molto tranquilla. Non ho telefonato ieri a nessuno, né a Letta né a Napolitano. Quello che dovevano dire su di me lo hanno già detto. Non ho avuto alcun contatto con la Torino per una questione di ovvio rispetto, perché se lo facessi magari sarebbe letto male. E ancora: ho spiegato tutto quello che c'era da spiegare con i magistrati di Torino, ho usato l'espressione riferita a Antonino Ligresti, gli ho riferito, e questo poteva essere fatto sia con un SMS sia con una telefonata. Quindi la tesi del ministro Cancellieri è di non avere né mentito né nascosto alcunché. Nel verbale del 22 agosto è scritto così, scrive Repubblica: ieri sera Ligresti mi ha inviato un SMS chiedendomi se avessi novità e gli ho risposto che avevo effettuato la segnalazione. Gli ho riferito, gli ho risposto, siamo lì. La tesi di Cancellieri è che non ha nascosto nulla. Insomma, aver detto gli ho risposto all'SMS di Antonino Ligresti per Anna Maria Cancellieri vuol dire gli ho risposto sia con un SMS oppure gli ho risposto anche con una telefonata, perché questa è la contestazione, di avere nascosto una telefonata ad Antonino Ligresti il giorno prima dell'interrogatorio. Quel reato non esiste, l'idea di dimettersi per il clima insostenibile. Ecco, siamo ora sul Corriere della Sera, il retroscena è di Giovanni Bianconi. Qui sul Corriere della Sera già si affaccia una linea non più intransigente come quella di Repubblica, che dice è pronta a combattere fino all'ultimo. In realtà, scrive il Corriere, è informata dai giornali che forse sarà indagata per il reato di false informazioni al pubblico ministero. Il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri continua a mostrarsi incredula per quel che sta accadendo intorno alla sua testimonianza resa al procuratore aggiunto Nessi il 22 agosto scorso, e dice: sono stata io a informare il magistrato dei colloqui telefonici con Antonino Ligresti, loro non ne sapevano ancora niente. Che senso avrebbe avuto svelare quei contatti e mentire sulla chiamata fatta o ricevuta? Io non avevo nulla da nascondere, né allora né adesso. Ho detto e ripeto quel che mi ricordavo e ricordo senza mai mentire. Il punto è proprio questo: rivela di essere stata contattata tra il 18 e il 19 agosto da Antonino Ligresti affinché intervenisse per sorvegliare in carcere sulle precarie condizioni di salute di Giulia Ligresti, ma quando alla telefonata del 21, o meglio all'SMS di Antonino Ligresti, lei risponde: io gli ho risposto che avevo effettuato la segnalazione. Ecco, gli ho risposto come? Con un SMS, con una telefonata, sta tutto qui il l'inghippo della possibile menzogna ai magistrati. C'è da dire che, secondo il Messaggero, la linea di Enrico Letta potrebbe essere questa: se indagata, il passo indietro è inevitabile. Quindi un po' tutto sarà in mano oggi ai magistrati, che dovranno decidere tra oggi e domani se mandare, se indagare, mandando tutte le carte a Roma, il ministro per falsa testimonianza ai procuratori. E allora, per il Messaggero, questo cambierebbe le cose, e cioè il retroscena, firma Alberto Gentili in prima pagina del Messaggero, è proprio questo: se c'è massima cautela da parte di Enrico Letta, ma se dovesse essere indagata e la vicenda dovesse diventare penale, ecco allora che c'è la possibilità di chiedere un passo indietro ad Anna Maria Cancellieri, e ci sarebbe già il nome del ministro pronta a sostituirla, vale a dire l'attuale vicepresidente del CSM Michele Vietti. Il Messaggero: la linea Letta, se indagata, passo indietro inevitabile. Insomma, tutti raccontano l'amarezza del ministro. C'è, come detto, Giuseppe Civati, che fa un'intervista al Secolo XIX, intervistato a pagina 2, è molto duro a dire: vergognoso salvarla per blindare il governo. Giuseppe Civati dice: faccio una riflessione, tutti i candidati alla segreteria del PD dichiarano la stessa cosa sui giornali, cioè che Cancellieri dovrebbe fare un passo indietro. Adesso però ci dicono: siamo in imbarazzo, non vorrete mica votare la mozione di sfiducia di Grillo. Allora c'è una terza possibilità, che il gruppo PD presenti una mozione su di condanna, così non si vota più quella del Movimento 5 Stelle. Insomma, sono queste questioni di lana caprina, la questione che Giuseppe Civati chiede che Anna Maria Cancellieri si dimetta un po' tutti. L'altra notizia politica del giorno certamente è il dopo scissione all'interno del Popolo della Libertà, la rinascita di Forza Italia. Sono volati anche dei coltelli. Ieri Sandro Bondi ha dato, credo, delle teste di rapa di chi ha lasciato Forza Italia, la neonata Forza Italia. E due sono gli articoli interessanti che voglio segnalare. Il primo è: quei vertici in Vaticano coi ministri alfaniani per preparare la scissione. È un retroscena di Claudio Tito su Repubblica. Racconta che dietro la decisione di Alfano e molti altri di arrivare alla scissione ci sono anche degli appuntamenti fissati sempre nei pressi di Piazza Pio XII in Vaticano, in un appartamento, incontri ripetuti nel tempo e da settembre con cadenza molto più serrata tra i protagonisti di questa scissione: Lupi, Quagliariello, l'ex montiano Mario Mauro, ma anche una volta Angelino Alfano, e chi? Monsignor Fisichella, ex cappellano di Montecitorio, ora titolare del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, e il cardinal Camillo Ruini, ex presidente della CEI. Dietro agli incontri, un ruolo appunto con Fisichella l'ha avuto Camillo Ruini. E questo sarebbe lo scenario da cui si è maturata l'idea della scissione, e cioè è maturata la scelta di arrivare a una frattura dentro il Popolo della Libertà: gli alfaniani da una parte, i berlusconiani dall'altra, insomma i cattolici da una parte, i laici dall'altra, ripetevano. E dunque ci sarebbe un ruolo del Vaticano, questo secondo Repubblica. Mentre Berlusconi riparte da che cosa? Dalle scuse agli ebrei. Toglierà nella seconda edizione del libro di Bruno Vespa, verrà tolta la frase il riferimento ai miei figli perseguitati un po' come durante l'Olocausto. Giacomo Galeazzi sulla Stampa: dopo la scissione Berlusconi riparte dalle scuse agli ebrei. Tra l'altro fa sapere il Corriere che anche ieri sera c'è stata una telefonata tra Berlusconi e Angelino Alfano. Insomma, continua in qualche modo la linea del dialogo fino alla decadenza, mentre Repubblica fa sapere che c'è partito il nuovo casting. Ci vogliono volti giovani, volti nuovi, persone fresche all'interno della nuova Forza Italia. Francesco Bei fa sapere che parte oggi il casting di Publitalia. Affidato chi? A Marcello Dell'Utri. Allora Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Allora, io sono rimasto un po' colpito oggi dal titolo d'apertura del Sole 24 Ore, ho detto non è una buona notizia. No, si chiama clausola di salvaguardia. No, è chiaro. Si chiama clausola di salvaguardia, la salvaguardia sì. È loro, è chiaramente. La salvaguardia, sì, esatto, perché uno pensa alla clausola di salvaguardia, ci salviamo. Però non è a favore del contribuente, no. È a favore dei conti dello Stato. E quindi, come argomentano bene, insomma, Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente, ci sono già 2 miliardi, anzi un pochino di più, ma se stai a guardare la virgola, insomma, un po' di più di 2 miliardi che sono lì in agguato, un po' la tassa tagliola. Una probabilmente te la ricordi, è quella che se entro la fine di gennaio non sistemano un po' gli sconti fiscali, già ce ne tolgono un pezzetto. Però insomma puoi consolarti, guarda la cosa delle carte prepagate, sai che abbiamo queste pagine dedicate al risparmio, anche come dire i tuoi 2 euro per dire, sì. Potresti fare una carta prepagata, ci sono queste pagine di plus che ti spiegano un po' quale scegliere, così li investi a ragion veduta. Vabbè, e se proprio guarda la lettura dei giornali ti scora, ti dico abbiamo una guida, studiare all'estero. Percorsi, consigli, così io te la butto lì, non ti voglio invogliare. Infatti, per i miei figli, forse futuri, non è che mi vuoi mandare a studiare, mi vuoi rispedire sui banchi, no? No, non mi permetterei mai, anzi, casomai il contrario, lo dico per me, però. Insomma, magari per i tuoi figli, se qualcuno si sentisse scorato appunto dalla lettura dei giornali, beh, insomma, c'è il massimo dell'ottimismo che possiamo dire è mandate i vostri figli all'estero, ecco. Guarda, dai, il massimo ottimismo, si possono rimediare gli errori fatti con l'IVA portato al 22% con una fatturina, si chiama fattura semplificata, è tutto spiegato sulla prima pagina della sezione norme e tributi. Guarda, questa è una buona notizia, la spieghiamo per bene, con esempi e quant'altro, quindi niente paura, come diceva Ligabue, niente paura, si può anche sbagliare, ci si può correggere con il fisco, ecco, non ci sono solo cattive notizie. Assolutamente, dai, sennò... sì, no, ma infatti, l'altra buona notizia l'ho letta su Repubblica, vorrei un tuo commento, caro Mauro Meazza, e salutarti, perché si è scoperto il ruolo di Adriano Galliani, pare, e cioè non fare questo casting che è affidato a Marcello Dell'Utri, ma occuparsi del settore sportivo di Forza Italia. Ti giuro che l'ho letta così, non ho capito bene che cosa voglia dire. Quindi Galliani passa dal Milan a Forza Italia, cioè questo è un po'. Sì, il... ma il settore sportivo di Forza Italia, non so cosa voglia dire tecnicamente. Ecco. Ma si porta anche Allegri, cioè come funziona lì poi? Perché io avevo sempre da consigliare Stramaccioni. Non lo so, infatti, potrebbe essere. Tu Stramaccioni, insomma, ti è rimasto sul gonzo prima o poi da qualche... No, io anzi vorrei così rivederlo un po' sulla panchina. Io non ero un sostenitore di Stramaccioni, figurati. Va bene, comunque. So, staremo a vedere Adriano Galliani che farà. Intanto Mauro, ti saluto e ti ringrazio, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ripartiamo con le altre notizie dai giornali. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, insieme ai 2 miliardi di euro di tasse che arrivano, c'è anche la novità, come racconta sempre il Sole 24 Ore, dei tribunalini. Sapete, la riforma dei tribunalini è ancora aperta, ancora tutto in Italia, non si può fare mai nulla, ricordatevelo, nessun tipo di riforma. Infatti questa... sulla voluta tra l'altro proprio dal ministro Cancellieri, i tribunalini, partita ancora aperta. Antonello Cherchi e Valentina Maglione racconta la pagina 19 del Sole come della Cassazione sia arrivato il via libera alla richiesta di un referendum promosso da 9 regioni che hanno chiesto questo referendum per abrogare la riforma della geografia giudiziaria partita il 13 settembre scorso e che ha soppresso 279 uffici giudiziari tra tribunali, procure e sezioni distaccate. I quesiti referendari hanno ricevuto il via libera della Cassazione, ora dovranno affrontare anche il vaglio della Corte Costituzionale. Il dato di fatto è che se viene approvato ci potrà essere un referendum che abroga dunque questa riforma dei tribunalini. Ale, si fanno le riforme, poi c'è il referendum e tutto rimane uguale, sempre uguale. Allora, c'è una foto che sta girando sui giornali, ieri forse l'avete vista, è una foto che... immortala una manifestante dei Notav che dà un bacio sulla visiera di un poliziotto durante una delle manifestazioni. Questo faccia a faccia molto molto ravvicinato, molto molto intenso, che è stato in qualche modo equivocato anche da qualcuno come se fosse un gesto di pace, di distensione, un gesto di collaborazione tra i manifestanti e appunto questo celerino. In realtà questa ragazza di 20 anni, Nina De Chiffre, di Milano, studentessa universitaria, ieri ha tenuto a dire, e oggi lo fa anche con un paio di interviste a Repubblica e alla Stampa: sono io la Notav che bacia quel poliziotto, ma quale gesto di pace, volevo solo schernirlo. Sentite ieri cosa ha raccontato su Facebook: sono sconvolta di come vogliate reinterpretare le foto, la ragazza in questione sono io, nessun messaggio di pace, anzi questi porci schifosi li appenderei solo a testa in giù. Si riferisce ai poliziotti dopo quello che è successo a Marta, una mia compagna molestata e picchiata. E allora, intervistata da Repubblica, da Erika Di Blasi e Jacopo Ricca, dice: e quel basco, quel bacio, ma che, volevo fare una scelta, o sputargli o baciarlo. Ho scelto la seconda possibilità, provocarlo come farebbe una sex worker, una prostituta, insomma. So quali siano le regole d'ingaggio delle forze dell'ordine e ci ho giocato. So bene che non possono reagire alle provocazioni, non mi sono limitata a baciarlo. Gli ho detto delle cose per vedere se reagiva, ma lui è rimasto ignobile, era grottesco, come una macchina bloccata. Gli ho anche leccato la visiera, mi sono bagnata le dita e ho toccato le sue labbra. Ecco come dice questa ragazza. E quale sarebbe il significato di tutto ciò? Il mio era un gesto di spregio verso le forze dell'ordine. Volevo che quel poliziotto si ricordasse quello che è successo a Marta di Pisa. Lo scorso luglio è stata molestata e picchiata senza nessuna conseguenza per gli agenti. E insomma, intervistato tra l'altro anche parla invece il poliziotto del bacio alla Stampa, in qualche parola Massimo Numa e Maurizio Tropeana, un ragazzo di 25 anni, siciliano, da pochi mesi a Torino, fa parte del quinto reparto mobile, e ieri mattina dice: bacio, diremmo forse meglio un tentativo di provocazione risolto grazie alla professionalità del nostro operatore, fa sapere la polizia. E vabbè, insomma, questa è la situazione di quello che viene, di quello che trovate questa foto sui giornali. Vabbè, io sono in rapida chiusura, e allora, siccome sono in chiusura, è il momento di ripartire con l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali, il premio più ambito della rassegna stampa di Radio 24, la carta costa, va oggi al Corriere della Sera e a Elvira Serra, che dedica un'intera pagina, cari ascoltatori, su questo tema che spacca le coscienze e divide le famiglie. In discoteca e a bere un drink, stasera faccio coppia con mamma. È una tendenza non solo americana, di quella di andare al cinema o a un corso di salsa e merengue con la mamma, mamma e figlia. E infatti degli esempi di mamma e figlia degli italiani medie: Ornella Muti e Nike Muti, Tiziana e Cristiana Rocca, Evelina, Cristillina e Virginia, madre e figlia durante una serata al Teatro Regio di Torino. Elvira Sella dice: in aula in Italia si notano nelle balere, come no, di salsa e merengue, in America è un fenomeno da club, mamme e figlie insieme, tutte appassionatamente. Ma insomma, dice lei, il Corriere, la carta costa e voi non ve ne accorgete. Ebbene, giornale radio.